Lucia qui a Roma e pian pianino tutti gli altri che eventualmente avranno la voglia di sintonizzarsi in questo giorno appunto particolare per molti. Intanto anche Jean-Claude Aubertot ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta. Noi invece siamo qui e andiamo ad iniziare con In the Nursery, con questo lavoro che in realtà è una sonorizzazione di un film degli anni 20, The Seashell and the Clergyman, incentrato anche sulla figura di Antonin Artaud. Un album uscito nell'ottobre di quest'anno, quindi effettivamente recente, per Clive e Nigel Amberston, i due gemelli di Sheffield, una città che ha dato a Natalia tanti tanti artisti dell'area elettronico industriale e anche dato vita alla Warp, strafamosa etichetta di musica elettronica. Tornando in The Nursery, ci ascoltiamo 5 brevi estratti di stampo ovviamente neoclassico e sinfonico. Rentless Pursuit, Beacon, Pursuit, Horizontal Suspension e Witty Sense. Stiamo un po' tardando, ma credo faccia piacere ancora per un po', qualche minuto con In the Nursery. The Seashell and the Clergyman, ultimo lavoro del 2019, sempre per IDN Corporation, The Nursery Corporation. Minuti dunque dedicati a In the Nursery, maestri nel sonorizzare film, come già accadde tanti anni fa, come per esempio con un film dedicato a Giovanna d'Arco. In questo caso questa pellicola era del 1928 di Seashell and the Clergyman, diretta da Germain Dulac, e che prende spunto dalle avventure alla storia di Antonin Artaud. Cinque brani dunque per In the Nursery. Intanto si sta allungando il cosiddetto parterre di ascolto di prove tecniche di trasmissione. Manu Fais, valente artista di Pioggia d'Ambra, altro artista Nicola Locci come Stigmate, lo salutiamo. Salutiamo anche 25 O'Clock, che contrariamente a quanto ho detto qualche minuto innanzi, questa sera non andrà in onda. Per lui diamo l'appuntamento presumibilmente il 1 gennaio, mercoledì 1 gennaio. Eccolo qua, Cristiano Bocci, anche lui della Toscana. Naturalmente si va anche a salutare l'onnipresente, credo di aver letto il nome, c'è anche lui, sì, Raffaele Pezzella, in quel di Napoli. E Raffaele Pezzella è anche sinonimo di tanta buona musica e di etichette, Anespress Sounds, ma anche Eight Tower Records, che fondamentalmente è una sussidiaria più incentrata su sonorità ambient e ritualistiche in genere. Quindi non a caso questa sera andiamo a conoscere una compilation uscita quest'anno. La compilation in questione si chiama Witchcraft and Black Magic in the United Kingdom. Quindi lo spunto è la stregoneria e tutti i ritualistici annessi e connessi che erano di casa nella Gran Bretagna, soprattutto in epoca medioevale. Quindi questa è l'ispirazione che ha dato la vita a questa compilation, che ha messo insieme i soliti grandi artisti scelti con gusto e perizia da Raffaele Pezzella. Cominciamo con Grief Frequency, la prima proposta, con Elegy for Vanguard Tom, e poi Rapun, un nome un po' più noto, con The Village. Gabby Morrow, dunque, ossia Grief Frequency, atmosfere dall'afflato religioso, una religione di spirito pagano. E non da meno è anche Rapun, l'artista che sta partendo ora. Questo è The Village. Ricordiamo sempre The Witchcraft, The Black Magic in the United Kingdom, ritualistica e stregoneria nella Gran Bretagna del Medioevo. Robin Story, ossia Rapun, come puntualmente ci rende dotti Raffaele Pezzella, un membro anche dei leggendari Zofiat France fino al 1992, e poi si è dedicato completamente al suo progetto solista. L'esoterismo che pervade per intero questo Witchcraft and the Black Magic in the United Kingdom. I cosiddetti rituali più neri, la stregoneria, nella Gran Bretagna medievale. Questo è, una compilation dedicata anche a Daniel Williams, e il tutto è stato ideato dal cerimoniere Raffaele Pezzella della Unexplained Sounds, in questo caso 8 Tower Records, altra etichetta, altra creatura dello stesso Pezzella. Saluto ancora Cristiano Bocci, Chemical Resistance, suo progetto tra Doom Industrial, che già vi dico che sentiremo la prossima settimana, caro Cristiano. Dunque, la prossima settimana manderemo Chemical Resistance. Di ritualismo, il ritualismo da cultura ad altra cultura, questa è la cultura tibetana. Messa a fuoco da Contemplatron, che invece è un progetto polacco. Esordirono nel 2005 con questo Antarabhava The Six Realms attraverso la Vrotix Records. Questa è Innerscapes. Thank you. Dunque, dalla Polonia Contemplatron ci siamo persi in questo trip, in questo mantra, un vero e proprio mantra, estratto da Antarabava, The Six Realms. Si chiamava Inner Escapes, il primo lavoro per questo trio polacco con Jaroslav Bierny. E Dominika Gornia-Snek, il terzo componente, non è citato. Non so se è aggiunto soltanto live, giocché li ho visti live in novembre proprio in Polonia ed erano in tre a suonare. Buonasera anche Enrico Cerrato, alias Petrolio. Arriviamo invece a una compilation proprio italiana ed è quella ideata dalla Black Clash Records di Francesco Radius, Anale numero 2. Una variegatissima compilation che abbiamo non a caso sentito anche in sede di Disorder, ma ci sono anche ampi spazi più riconducibili qui a questa dimensione del mercoledì sera. E quindi ci ascoltiamo F, progetto No Name, con Sara Fontana e Dario Arrighi, e Brigadens e Globo Oscuro, un nome noto, Emiliano Pietrini, con questa traccia Onerofobia, da Anale volume 2. F, faccia, facezie, fatica, fattori, fanculo, fauno, fede, fellatio, ferita, fermata, fila, filantrocca, fisarmonica, fondale, fornace, foro, forzuto, fulcro, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Thank you. fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Come annunciato, Brageseden e Globo Oscuro, questo è Oinorofobia, sempre da Anale, volume 2. Anale, ricordiamo, è un acronimo. Un saluto a Eloquence Recycle, buon Marco. E a Wurnus Allen, altro pezzo di storia della scena industrial nostrana, da Asti. Scenari inquieti e disturbati ideati da Brageseden e Globo Oscuro. Ricordiamo Anale volume 2, una compilation che racchiude e assembla artisti di Livorno, Pisa, e forse altre località della Toscana, ma soprattutto Livorno, a testimonianza dell'estrema creatività di questa scena. Operazione della quale dobbiamo ringraziare Francesco Radius della Black Ash Records. Adesso una preziosissima collaborazione, uno split tra Giovanni Leo Leonardi, che tutti conosceranno come Carnera, Siegfried e tanti tanti altri progetti, insieme a Moreno Padoan di Hardcore Machine. Il tutto si chiama Mole e hanno dato alle stampe recentemente un album dal nome Spores, dedicato a Mica Vainio di Panzoni, che è tutto incentrato su suoni frammentati, decostruiti, evanescenti a tratti, ma carichi di suggestioni in altre. E quindi lo andiamo a conoscere con Toxicology Report e Shamanism.